voi siete veramente simpatiche. Oh, grazie Laura, anche lei, a dirlo. No, ma lo so perché. Perché anche quando parlate di malattie o di denaro che si sta perdendo, voi ci date speranza. Ma il cielo è sempre più blu. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, anche oggi Cuore e Denari è in trasferta. Trasmettiamo infatti dalla Fiera di Milano Ro, ospiti di Matching. Per chi volesse venire a vederci, sì, ne vale la pena, no? È uno spettacolone. Ecco. O a salutarci, a noi fa sempre piacere. Siamo al padiglione 22, prendete nota, stand D01. Eh sì, c'è questo verdone che spicca su tutti. Non potete sbagliarvi. Oggi vogliamo parlarvi di muri e di barriere. Quando si parla di barriere, si fa fatica ad andare oltre alla definizione. Pensiamoci, se io cammino bene, vedo, sento, se mi sposto agevolmente, se sono nella condizione di trovare subito un'alternativa, di anticipare un pericolo, la barriera rimane solo una parola, o meglio, un problema magari per altri che non tocca a me. Prendiamone consapevolezza, io per prima, e confrontiamoci al nostro numero verde 800 24 00 24. Chiamateci per raccontarci che tipo di barriere dovete affrontare nella vostra vita, nella vostra quotidianità. Parleremo di barriere architettoniche, sono quelle che impediscono gli spostamenti, che allontanano, che separano, ma parleremo anche di barriere invisibili che mettiamo nel renderci inaccessibili agli altri. Lo facciamo per timore, per paura, per fragilità, per presunzione, perché gli altri non sono degni di noi, lo facciamo inconsapevolmente. Forse ci sono delle barriere che mettiamo anche dentro di noi per allontanarci da quelle emozioni che ci fa paura vivere e affrontare. 800 24 00 24, noi siamo qui, vi aspettiamo, iniziate a intervenire. L'ospitalità è fatta di gesti, grandi o piccoli. A volte non servono striscioni, bande musicali, fasce tricolore e chiavi della città. Basta uno sguardo o un minimo accorgimento. Ospitalità significa aprire la tua casa, il tuo albergo, le tue braccia al mondo. O anche solo spostarsi perché qualcun altro possa godersi lo spettacolo. L'ospitalità è un segno di grande civiltà. È un tratto che nobilita noi e il nostro paese. E questo era un estratto di un video del Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, in collaborazione con l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Italia, un paese ospitale, ospitalità fa rima con disabilità, ma solo se fa rima anche con accessibilità, no? Certo. Nicoletta, sei d'accordo? Oggi a Cuore Denari, in occasione di questa presenza a Matching, abbiamo scelto di affrontare proprio questo tema che a noi è molto caro, quello dell'accessibilità, ma di un'accessibilità particolare, quella nell'ambito del turismo del nostro paese, perché noi vogliamo un turismo che sia senza barriere. La prima cosa che ci viene in mente parlando di barriere è intanto l'edilizia, che tenta di porsi sempre di più nell'ottica di edificare secondo criteri di accessibilità degli spazi alle persone con disabilità, che come sapete possono essere diverse. Certo. Parliamo poi di turismo accessibile perché naturalmente le persone con disabilità e con esse le loro famiglie rivendicano il diritto alla vacanza di qualità, ma a quanto pare ci si trova spesso in situazioni complicate perché gli imprenditori del turismo, magari anche armati di tutta la buona volontà del mondo, non hanno le soluzioni giuste e non riescono ad accogliere questo tipo di richiesta. Per questo qualche tempo fa ad una persona con la piena coscienza di questi limiti, anche perché li viveva sulla sua pelle, ha pensato di creare una certificazione di qualità da assegnare ai villaggi vacanze che avessero i requisiti per un turismo accessibile. Così è nato Village for All, il villaggio per tutti. L'idea è stata di Roberto Vitali, che è venuto a trovarci qui nei nostri studi di Matching. Ho fatto una bella presentazione, eh? Bellissima, vero? Adesso uno può dire vado a casa. Dopo questo io... No, ecco, magari una cosa, sì, la dico, perché Sembra che noi ci occupiamo di villaggi e di campeggi. In verità il Village for All nasce su un altro ragionamento. McLuhan nell'inizio degli anni 60, che era un filosofo della comunicazione, disse che con la comunicazione elettronica di quegli anni il mondo diventava sempre più piccolo e diventava sempre più un villaggio globale. Da qui nasce la nostra idea di Village for All, di creare un mondo, il nostro villaggio, che sia un mondo veramente per tutti. Pensate che oggi è più semplice andare sulla Luna che attraversare una città o una delle nostre metropoli. Se possiamo camminare sulla Luna è difficile capire perché non possiamo camminare sulla Terra. Salutiamo Samantha Cristoforetti, allora già che ci siamo, no Nicoletta, sei d'accordo? Allora, questo è Matching, il luogo dove si incontrano le piccole e medie imprese che vogliono, eccoci qua con un po' di tosse, che vogliono fare... D'altra parte siamo a cuore denari, per cui la tosse, no? Benvenuta. La curiamo subito. No, stavo dicendo appunto, Matching è il luogo dove le piccole e medie imprese si incontrano per studiare le soluzioni per crescere, fare rete ed internazionalizzarsi. Village for All che cosa fa qui? Village for All è qua perché cerca di proporre una visione diversa di questo tema dell'accessibilità. Si tende sempre ad affrontare il tema dell'accessibilità dal punto di vista del rispetto delle norme e dal punto di vista delle leggi. In verità c'è un mercato che è un'opportunità per il quale forse vale la pena di cominciare a pensare di darsi strumenti per poterlo affrontare. È un mercato che oggi costa a noi, che in Europa non lo pratichiamo, 142 miliardi, questi miliardi di euro, questo è un dato della Commissione Europea. Se lavorassimo sul turismo accessibile potremmo fare qualcosa come 800 miliardi di euro di fatturato. Quindi un po' di posti di lavoro, circa 9 milioni di posti di lavoro che possiamo aggiungere grazie a questo mercato. Quindi cerchiamo di dare una motivazione diversa dal semplice rispetto della norma, quindi dal vincolo, dalla normativa, e cercare di offrire qualcosa più orientato alla qualità. Oggi non è sufficiente fare una rampa all'8% o mettere uno scivolo buttato lì. Oggi bisogna cominciare a pensare di fare le cose belle, fatte bene. Il design, l'accessibilità può portare in sé un valore intrinseco, che è quello del turismo, dell'ospitalità. Deve essere anche bello, deve essere ospitale. Io ho diritto. Oggi non è che io non riesco a dormire in un albergo. Io oggi non ho e non mi vedo garantito la stessa qualità che viene offerta agli altri. Io se vado in montagna, a me danno la camera di dietro, quella per disabili, con il finestrino in alto e magari anche il letto singolo, mentre a voi danno la camera con il balcone con vista sulle Dolomiti, e poi io dovrei far dormire magari la famiglia, mia moglie e due figli, nella camera accanto. Ecco, noi cerchiamo di proporre invece un approccio diverso. Le persone disabili che fanno turismo sono turisti, sembra una ripetizione, ma cambia sostanzialmente. Però cambia sostanzialmente. Io quando vado in vacanza non voglio trovare una camera da ospedale. Io quando vado in vacanza voglio fare il turista, voglio una camera bella e voglio stare c'è con la mia famiglia. Il divertente aneddoto sul bagno per portatori di handicap, che ho visto lei riproporre appunto in molte interviste, magari poi ci torniamo. Intanto direi di sollecitare anche i nostri ascoltatori ad intervenire su questi argomenti. Allora iniziamo chiedendomi di raccontarci all'800 24 00 24, se vivete una disabilità in prima persona o in famiglia, come affrontate le esperienze di viaggio, di turismo, di vacanza, quali sono le maggiori difficoltà che incontrate o che avete incontrato, oppure quali sono anche gli esempi migliori di accessibilità in cui vi siete imbattuti. Attenzione, in una parola, ospitalità. Raccontateci tutto quanto, anche se volete, al 349 238 6666 su Facebook o su Twitter. Solo quando uniamo due cose insieme, due tratti di matita, due parole scritte, due note, sconfiggiamo la dissoluzione e innalziamo delle barriere contro l'oblio. Virginia Woolf. Abbiamo il piacere di avere l'amico Franco Lisi, vicepresidente della sezione Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Milano e direttore del Dialogo nel Buio. Perché dico amico? Perché, come gli ascoltatori di Radio 24 sanno, Radio 24 è la radio ufficiale degli ipovedenti e non vedenti, e quindi Franco Lisi lo conosciamo da tempo, con lui abbiamo già avuto modo di incontrarci tante volte. Franco, benvenuto e bentornato. Grazie Nicoletta, buongiorno a te, buongiorno Debora e buongiorno a tutti. Buongiorno. Ascoltatori. Allora Franco, da quando stamattina tu sei uscito da casa, quante barriere hai incontrato e superato? Noi oggi vogliamo proprio parlare con te, con i nostri ascoltatori e i nostri esperti di barriere architettoniche, ma vogliamo parlare anche di barriere invisibili. Ne approfitto per presentare l'ospite che ci aiuterà a definire queste barriere invisibili con cui tutti noi ci confrontiamo, a volte anche scopriamo all'improvviso di venire a che fare con queste barriere, e che il dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore e psicoanalista freudiano, che è una presenza quasi fissa a Cuore Denari. Benvenuto. Grazie, che bello essere una presenza così fissa. Allora, Franco, raccontaci della tua mattina. Sono le 11.18. Franco Lisi, cosa ha fatto questa mattina? Intanto, per proseguire rispetto a quanto avete già detto, direi che è molto più semplice oggi twittare con lo spazio, no, con Samantha, anche per noi disabili, piuttosto che muoversi nello spazio in una città come quella di Milano. Io aggiungerei soltanto al termine di disabilità e accessibilità quello di usabilità, proprio a confermare e a meglio definire e a sottolineare appunto l'importanza della qualità, cioè un ambiente accessibile non è detto che sia usabile, quindi io aggiungerei soltanto questa parolina. Venendo a me, questa mattina Nicoletta sono stato molto fortunato, mi è andata bene, sono arrivato integro in ufficio, chiaramente in ufficio quando entri in ufficio ti siedi dietro la scrivania e abbassi un po' le difese, no? E quindi ti rilassi. Ho avuto soltanto litigato con qualche trolli, sai, vicino a me c'è una scuola dove abito io, e quindi quando attraverso, se vado controcorrente, tutti i bambini con i trolli, quindi rischi davvero di inciampare e di fare male a loro più che a te. E è una cosa curiosa che ve la riporto come aneddoto, chiaramente questi mi vedono col bastone bianco e dico: mamma, è un cieco, e la mamma ovviamente fa silenzio, no, come se questi perché dicessero... lui non lo sa. No, perché... e quindi io ovviamente rispondo di sì, sono cieco, questo è il bastone. E stamattina mi è successo questo, io sono molto contento. Quando mi succedono queste cose vuol dire che insegni qualcosa a qualcuno, e questo fa parte anche del nostro lavoro, insomma, quello di diffondere la cultura della disabilità, dell'altro, della diversità. E mi è successo questo e mi è andata bene, insomma, sono molto soddisfatto. Abbiamo dottor Ballerini, vengo a lei, riprendendo quello che ci ha raccontato Franco, la mamma che dice al bambino, che non sa rispondere al bambino, che naturalmente punta il dito, vede Franco con un bastone bianco, oppure vede una persona sulla carrozzina e dice: mamma non ha le gambe, oppure mamma è cieca. E noi tante volte non riusciamo a fare questa cultura, che è una cultura che fa informazione e che abbatte quelle barriere, che in questo caso noi costruiamo e poi ci scopriamo che hanno delle fondamenta molto profonde, perché vengono, no, ogni anno si radicano. È proprio così, e il problema è ancora più grande, potremmo farci quasi una puntata, è quanto abbiamo paura della realtà, quanto abbiamo paura del dato di realtà. Cosa che i bambini non hanno, per cui i bambini osservano un signore che non vede e dice: guarda che è un cieco, no? O guarda che non riesce a camminare, o guarda che non ha le gambe, e riescono a inserire questo dentro un dato di realtà, e è l'adulto che poi su questo dato di realtà mette tutte le sue barriere, e le vedremo anche dopo, i pregiudizi che ci sono, che sono delle grandissime barriere, e a quel punto il dato di realtà diventa insopportabile, allora dobbiamo censurarlo, non dirlo, non farglielo sapere, come la tua battuta, come se lui non lo sapesse, certo, che è cieco, no? Franco invece, sì, Franco, Roberto Vitali, quante difficoltà questa mattina per arrivare qua in fiera? Lo studio era prontissimo. Però ad esempio per me il vostro studio era inaccessibile, perché io non ho visto lo scivolo c'era ma era nascosto. E quindi mi mancava l'informazione per poter arrivare. Perché in realtà molto spesso non è vero che le cose non sono accessibili, non abbiamo le informazioni giuste e corrette per poterle utilizzare nella maniera corretta, e questo purtroppo è uno dei gap più grandi che noi abbiamo. Lo stesso problema, invece, il problema ad esempio per arrivare sul palco dove abbiamo fatto la presentazione prima era che lo scivolo non era previsto, quindi c'era il palco ma non lo scivolo per arrivarci. Poi insomma sappiamo fare a mettere in pratica anche situazioni di compenso per poter superare queste problematiche, ma per alcuni sono problematiche che non sono affrontabili. Non abbiamo la giusta informazione, ma Franco, secondo te la tecnologia ha in qualche modo modificato, semplificato la vita delle persone con disabilità? L'introduzione della tecnologia avanzata, ad esempio, può favorire la mobilità dei ciechi, anche degli ipovedenti? Può, non è detto che lo faccia. Intanto la tecnologia, la più avanzata, deve essere amica, deve essere addomesticata, deve essere, come dire, accessibile, appunto, non deve costituire il fenomeno, peraltro dilagante, del digital divide, no? Perché oggi quando si parla di accessibilità si parla anche di barriere costruite per impedire ai disabili di utilizzare ad esempio il web o comunque certi dispositivi. Ecco che quando invece un'applicazione o un dispositivo è costruito tenendo anche conto di quelli che sono gli elementi fondamentali di accessibilità, allora può essere anche utile per favorire la mobilità dei disabili e dei, in particolare penso ai disabili visivi. Molte sono le applicazioni in questo senso, si tratta di selezionarle. Stiamo come Unione Italiana Ciechi, come Immaci, cercando di rendere, lo dico così per farmi capire, parlanti tutti quei percorsi tattili che si vedono a terra e che sono una sorta, io li definisco come autostrade senza cartelli d'ingresso, no? Non so se avete presente negli aeroporti, nelle stazioni, sì. O anche, ecco, si tratta di inserire dei chip e quindi fare in modo che la persona che si avventura lungo questi binari sappia in quale direzione ha preso. Ecco, questo è un piccolo esempio di tecnologia avanzata che può favorire. Poi ci sono applicazioni che girano appunto sui touchscreen, sui mobile, e sono applicazioni che ti danno informazioni rispetto ai mezzi, rispetto a poi con l'utilizzo del GPS. Ovviamente i passi in avanti sono numerosi. Sono stati fatti. La risposta allora è generalmente sì, previa appunto una selezione e un coordinamento, una cooperazione tra le parti. 800 24 00 24, aspettiamo le vostre telefonate, stanno già arrivando numerose. La parola chiave di oggi è barriera architettonica, ma anche quelle barriere invisibili di cui parleremo con tutti i nostri esperti, che ci separano dagli altri e che mettiamo, come si dice, io ho messo, c'è un muro tra me e lui, lo diciamo tante volte quando ci cade la fiducia e quant'altro. Abbiamo i nostri ascoltatori che sì, vogliono mettersi in contatto con noi. Esatto, Deborina. C'è chi ha delle riflessioni sull'argomento, chi invece molto concreto ci vuole raccontare di progetti sul territorio che sono andati proprio nella direzione di superare queste barriere. Comincerei con la testimonianza di Gianmario dalla provincia di Vicenza, un geometra. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Cosa ha fatto di bello? Grazie. Allora, io nel 2011 ho progettato una casa alloggio per disabili. Sono stato chiamato da una cooperativa che doveva unire due realtà in un unico fabbricato, logicamente andando ad abbattere quelle che erano le barriere architettoniche che i fabbricati di oggi pongono. Sì. Quindi ho progettato e realizzato un fabbricato per 20 disabili con diverse disabilità, quindi molto polifunzionale, proprio perché la disabilità che oggi noi conosciamo è tecnicamente solo quella sensoriale, visiva o motoria, però sappiamo che ce ne sono altre disabilità, no? Sono anche tante disabilità invisibili, no? Sì. Tema Gianmario, la ringraziamo per questa sua testimonianza. Questa è una struttura però esclusivamente dedicata. Quello di cui noi oggi parliamo, Roberto Vitali, è tutto quello che è struttura rivolta a tutti e che deve essere anche accessibile alla persona appunto con disabilità. Quindi non stiamo parlando di strutture appositamente dedicate, anche se naturalmente facciamo i complimenti a Gianmario per essersi reso anche protagonista di questa iniziativa. Certo. Parliamo di turismo, quindi dobbiamo parlare della destinazione. La vacanza non è fatta dalla camera dall'albergo, per quanto bella, per quanto fatta bene, per quanto con un bagno che sia veramente accessibile, non per disabili. Necessariamente con il vaterone maxi, giusto? Sì, in realtà c'è questo problema tecnico. Allora, le barriere sono il frutto di una mancanza culturale. La barriera prima di tutto è culturale. Se noi non abbiamo conoscenze e competenze per fare le cose come si deve, ci andiamo a rifugiare negli standard, nella norma, la norma dice, e così ci siamo nascosti dietro un dito. Perché quando mi dicono hai fatto lo scivolo, ho fatto lo scivolo all'8% perché la legge dice che posso farla all'8%, in verità la legge dice che puoi farla al massimo all'8%. In verità la qualità di solito non sta mai nei limiti massimi, superiori, certo, o inferiori, la qualità sta nel mezzo. È vero che, nonostante sia citato nella legge, la legge dice che è responsabilità del progettista fare una cosa, fare un progetto fatto bene, ma non è solo questione del progetto, dell'oggetto costruito. Noi abbiamo la città, l'organizzazione dei servizi. Se noi nell'organizzare un servizio non pensiamo che ci siano anche utilizzatori che non vedono, non sentono, non camminano, allora siamo in difetto rispetto a un target che comunque 1 su 5, come dicono tutte le ricerche, 1 su 5 ha problemi di disabilità o di esigenze specifiche. Nel turismo accessibile si parla di special need, che non sono bisogni speciali ma esigenze specifiche. Come diceva prima un imprenditore durante la nostra presentazione, esigenze palesi, cioè una persona che non cammina ha un'esigenza che è palese, quella di trovare uno scivolo dall'altra parte delle strisce pedonali. La striscia pedonale deve cominciare con uno scivolo e finire con uno scivolo. Invece non ho ancora capito per quale strano algoritmo in Italia molto spesso questo non riesce a succedere. Allora parleremo, dottor Ballerini, mi veniva da chiedere da presentarla come professor Ballerini, ma non so perché assolutamente. Dottor Ballerini, prima di dobbiamo andare ai mercati, noi ma invitiamo anche il dottor colesterolo, figurati. Infatti, ma noi si può anche essere dei disabili emotivi. Certamente. Ecco, e di questo parleremo con i nostri ascoltatori. Cuore e denari. Se le barriere crollano, l'amore si impossessa di tutto. E non importa più ciò che è possibile o impossibile. Non importa se possiamo continuare ad avere la persona amata accanto a noi. Amare significa perdere il controllo. Paolo Coelho. Oggi stiamo parlando di barriere visibili come le barriere architettoniche, barriere invisibili, sono quelle che mettiamo tra noi e gli altri ma che costruiamo anche dentro di noi, barriere così alte con fondamenta talvolta così profonde che talvolta non siamo più capaci di abbattere. Dottor Ballerini, abbiamo bisogno di lei. Le barriere possono nascere da una serie infinita di motivi, da incomprensioni, da ignoranza, da mancanza di informazione, suggerivano anche Roberto Vitali e Franco Lise, l'esempio della mamma che non sa dire alla bambina quel signore che vedi con il bastone bianco è un signore che non vede, ma è una persona, no? Assolutamente come noi. Proviamo a misurarci con queste barriere, dottor Ballerini, perché io ho provato a riflettere su questo aspetto e se io mi chiedo hai delle barriere, io rispondo no, mi sembra di no. È un po' come quando si chiede ad una persona ma tu sei presuntuosa? No, assolutamente no. Ecco, invece barriere dentro e fuori di noi ci sono, le mettiamo, dobbiamo cercare di conoscerle per superarle, no? Ma queste barriere ci sono e Nicoletta, le abbiamo chiamate finora barriere invisibili, mi verrebbe quasi da correggere il tiro e chiamarle barriere immateriali, perché sì, in realtà sono visibili. Intendo dire, se io metto su un muro rispetto all'altro, l'altro se ne accorgerà, banalmente braccia conserte, fronte corrugata, piuttosto che lo sguardo che sfugge da un'altra parte, uno sguardo duro. Allora, il tono della voce. Il tono della voce, sono... è visibilissimo, tanto è vero che noi ce ne accorgiamo quando l'altro, come hai detto, uno dice ha tirato un muro su di noi, sì, no? Davanti a noi o fra di noi. Quindi le barriere ci sono immateriali ma sono visibili, sono visibilissime e possono essere sia le barriere che noi mettiamo nei confronti degli altri ma anche le barriere che noi mettiamo nei confronti di noi stessi. Certo. Ad esempio quando non vogliamo vedere certe cose nostre, quando non vogliamo capire qualche cosa di noi, quando c'è una parte di noi che vorremmo dimenticare, che vorremmo tralasciare, si chiama rimozione. Però la rimozione sappiamo che funziona per un po', che è un po' come non pagare le multe o le bollette. Sì. Io posso far finta di dimenticarmene, poi tornerà, vengono con gli interessi. Si parla del ritorno del rimosso, torna indietro con gli interessi. Allora anche questo è un tipo di barriera, è proprio la barriera a conoscerci. E a volte è più difficile conoscere noi stessi piuttosto che un altro. 800 24 00 24. Hai visto quante telefonate? Molte. Tantissime, andiamo, tutte belle. Andiamo a Cremona. Andiamo a Cremona. C'è dove Laura. Ci aspetta Laura. Buongiorno. Laura, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Buongiorno. Sì, Laura, cosa voleva raccontarci? Allora, state parlando di barriere invisibili o immateriali. Io volevo parlare di un particolare tipo di barriera immateriale, che è quella che è dovuta non tanto a ciò che noi erigiamo nei confronti degli altri, a blocchi o cose di questo genere, come state dicendo giustamente, ma a qualche disturbo di cui soffriamo, come per esempio il classico autismo ad alto funzionamento, piuttosto che la ADHD, l'iperattività o deficit di attenzione, sì, che sono disturbi neurobiologici che ci impediscono di comunicare con le persone che ne soffrono, ma noi per mancanza di cultura non lo sappiamo, perché non conosciamo questi disturbi e consideriamo queste persone, bambini, ragazzi, adulti, come strani o addirittura non normali o matti delle volte, mentre sono persone normalissime, intelligenti o molto intelligenti, ma che non sono in grado di comunicare come facciamo noi, certo, proprio a causa di un disturbo vero e proprio di cui soffrono. Laura, grazie per questa sua telefonata, che ci racconta che quando una cosa ci fa paura, non vogliamo conoscerla, vogliamo tenerla lontana da noi, succede in tante occasioni, per tante situazioni emotive, che facciamo? Mettiamo un'etichetta e mettiamo disabile, mettiamo autistico, mettiamo, e ce ne allontaniamo. Dottor Ballerini. Sull'etichetta, l'amico Vitale, che lo sentivo parlare prima, parlava del disabile turista, no? In realtà quello che voleva dire è: io sono, non sono un disabile turista, sono un turista disabile, quindi l'accento non è sul disabile ma sul turista, perché sennò disabile è un'etichetta che mi viene appiccicata su tutto e invece di diventare aggettivo diventa un sostantivo. Quando diventa un sostantivo vuol dire che io sono definito da quello, diventa una carta d'identità. Allora anche questi bambini, anche questi adulti che hanno difficoltà nel rapportarsi con gli altri, è vero che noi dobbiamo conoscere di cosa si tratta ed è vero anche che dobbiamo saperlo. Dobbiamo stare attenti però a cosa ce ne facciamo di questa informazione, perché se noi poi prendiamo un'etichetta e gliela attacchiamo al collo, gliela attacchiamo in testa, poi non facciamo un grande servizio. Allora, conoscere e sapere che c'è una difficoltà, ma allora la questione interessante per me, che voglio mettermi in rapporto con un altro, è: che cosa posso fare per favorirlo? Quale comportamento posso mettere in atto per cui l'altro possa essere invogliato di stare con me o possa avere una difficoltà minore? Allora, 800 24 00 24, gli ascoltatori stanno continuando a mettersi così, a candidarsi per intervenire questa mattina. Volevo però chiarire un punto sul quale ci siamo un po' confrontati adesso prima durante la pausa. C'è forse un piccolo equivoco che sta passando, forse non abbiamo fatto passare bene il messaggio del tema di come lo stiamo affrontando questa mattina, e molti stanno raccontandoci del fatto che hanno partecipato per esempio alla costruzione, appunto come raccontava l'ascoltatore di prima, di edifici particolari che ospitano persone con disabilità. Noi non stiamo parlando di questo, noi stiamo parlando per esempio del supermercato nel quale deve avere tranquillamente accesso una persona con carrozzina. Roberto Vitale, io la sto banalizzando naturalmente, quindi non parliamo, certo, di strutture, certo, speciali che magari ospitano, parliamo, persone, sì, con disabilità gravi, perché anche di quelle strutture c'è bisogno. Parliamo, certo, di coloro che hanno una vita assolutamente normale ma non riescono ad avere accesso ovunque a tutti i posti in cui è necessario andare, il supermercato come in banca, la posta e tutte le strutture pubbliche ad esempio. Parliamo delle nostre città, del fatto che le persone che hanno problemi motori o sensoriali, la mancata capacità di riuscire a interagire attraverso la voce o la vista o semplicemente la deambulazione, non sono considerati protagonisti della nostra, mm-hmm, città. Questo è il problema. I servizi non vengono organizzati per oggi, un po' di cose stanno cambiando, un po' alla volta forse ce la stiamo facendo. Diceva bene prima Ballerini. Sì. Le persone disabili che fanno turismo sono turisti, io lo dico perché l'accento lo voglio sulle persone. Io sono Roberto, non sono un disabile. E quando la gente mi dice ma insomma, li dobbiamo chiamare disabili, diversamente abili, come intanto parliamo di persone con disabilità, nome e sono persone con disabilità in quanto persone hanno un nome e cognome, punto. E quindi anche delle esigenze in vorrei, questo caso vorrei coinvolgere anche Franco Lisi è andato. Mannaggia, adesso abbiamo perso Franco, ma lo stiamo recuperando. Abbiamo anche dei Franco, ci sei? Sì. Allora ero ti avevamo telefonata. Perso. Affrontavamo il discorso del pregiudizio anche nei confronti che tante persone hanno della persona che ha una disabilità, che mette l'etichetta al disabile. Ti senti ti confronti con questa barriera ancora oggi? Sì, come non mi vedente? Avete dato tantissimi spunti che davvero tutti meritevoli di approfondimento. Ma intanto devo dire che quando conduco corsi, pronto? Sì. Quando conduco corsi di intelligenza emotiva ai manager chiedo sempre, o quasi sempre, insomma, chi si ritiene normale alzi la mano e nessuno mi è dato di sapere che si ritiene normale, quindi la normalità già è un concetto molto relativo. Parliamo di disabilità, non dimentichiamoci che esistono anche disabilità momentanee, temporanee. Una città a misura di bambino e a misura di disabile è una città per tutti. È chiaro che io torno un po' nel mio campo, perché vorrei cercare anche di sfatare o di non sottovalutare che il significato di accessibilità. Il significato di accessibilità è un concetto veramente molto complesso, molto complicato. Tante volte oggi si pensa di affrontarlo soltanto perché si mettono lì dei denari o perché si fanno delle piccole cose. In realtà io partirei proprio anche in una situazione di crisi congiunturale, insomma, cerchiamo di far funzionare ciò che oggi già c'è. Io penso ad esempio alla pulizia che oggi necessitano le nostre città. Incominciamo a lavorare sul togliere il concetto di barriera, no Nicoletta, che dicevi prima. Il concetto di barriera è in genere nell'immaginario collettivo sta a indicare qualcosa che impedisce, qualcosa che mi separa rispetto a un punto che non riesco a raggiungere, quindi pensiamo a una scala senza ascensore, un marciapiede senza discesa. Ecco, io ho bisogno come disabile visivo, e quindi quando si parla di accessibilità dobbiamo tenere conto di tutto, non esiste l'accessibilità per uno o per l'altro, io ho bisogno di qualcosa anche che mi incoraggi ad andare avanti, che mi induca a proseguire il mio percorso. Allora noi dobbiamo valorizzare e far funzionare quello che già c'è, quindi dequalificazione, pulizia dei marciapiedi, togliamo i cartelloni che sono spesso oggetto di disordine, che stanno a altezza uomo. Facciamo una campagna promozionale su quello che è il parcheggio selvaggio, perché se un disabile, un cieco, un bambino, una persona in carrozzina, un anziano trova una macchina, una moto parcheggiata sul marciapiede, ecco che quella via non è percorribile. Allora esiste un'accessibilità oggettiva, un'accessibilità avanzata, quindi come io progetto, e un'accessibilità con tecnologia avanzata. Ecco, si tratterebbe di scomporre questo problema, mi rendo conto che non è forse questo l'obiettivo di oggi, però inviterei tutti gli addetti ai lavori, ecco, a fare delle riflessioni su questo tema, perché altrimenti rischiamo di spendere energie, certo, di spendere tanti soldi e di non raggiungere l'obiettivo. Cuore e denari. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo viaggiare senza frontiere, senza barriere, possibilmente sempre con noi in diretta da Matching. Roberto Vitali, che si occupa dal 1992 di turismo accessibile. Ho letto che Roberto è portavoce anche della Commissione per la promozione del turismo accessibile presso il Ministero del Turismo e ha partecipato alla stesura del manifesto del turismo accessibile. Prima però vorrei raccontare ancora di più nel concreto che cosa fate, Roberto, con Village for All. Abbiamo raccontato lo spirito della vostra attività, ma nel concreto credo di aver capito che andate anche nei villaggi turistici, a prescindere dal fatto di monitorare un po' se il luogo è accessibile per le persone con disabilità, ma formate anche il personale, no? Intanto non diamo definizioni di accessibilità. Noi partiamo dal principio che ognuno conosce i propri bisogni. La battuta di prima, non si dice una persona cieca se è cieca, non si dice uno che non cammina perché non è bello. Io lo so che non cammino, sono in carrozzina, sono il maggiore esperto delle mie esigenze. Partendo da questo principio, noi le strutture le andiamo a vedere: villaggi, hotel, agriturismi, bed and breakfast, ma anche palazzi, musei, monumenti e chiese. Abbiamo messo un po'. Vi chiamano loro o andate voi a farti dei blitz? Assolutamente ci chiamano loro. Assolutamente ci chiamano loro. Noi non facciamo dei blitz, noi siamo un'impresa e siamo ovviamente a supporto delle imprese. Non siete un'organizzazione no profit, noi siamo nati come associazione, ma siamo diventati impresa perché ci confrontiamo con il mondo delle imprese, ci confrontiamo con gli imprenditori turistici e dobbiamo parlare lo stesso linguaggio. Noi siamo i loro alleati, siamo coloro che li può aiutare a portarli su questo mercato che dicevamo prima vale 800 miliardi di euro. E per arrivare su questo mercato abbiamo messo a punto un sistema che è basato prima di tutto sulle informazioni oggettive, quindi misure, larghezze e dimensioni, non dichiarazioni di accessibilità, perché se mi dicono è accessibile io chiedo a chi? A quelli in carrozzina, ma quelli in carrozzina sono distrofici, hanno una sclerosi multipla, sono paraplegici, sono tetraplegici, carrozzina elettrica, è manuale, ha le ruote grandi, pneumatiche, e non finiamo più. Allora io do delle informazioni che mettono le persone in grado di poter valutare in base alle proprie esigenze. Lo dicevamo prima, ogni persona è una persona, poi ha capacità, possibilità, competenze che sono diverse uno dall'altra. L'ambiente, ma assieme alla cultura, alla formazione e alle capacità delle persone, fanno il totale, come si dice, ma se non ho le informazioni non posso scegliere. Questo è il principio sul quale noi ci basiamo. Non ci interessa lo standard della norma, perché la norma ti dice il minimo sotto il quale non devi scendere, e oggi un'offerta turistica non può essere lanciata a qualsiasi turista dicendo vieni a vivere un'emozione da noi, ti garantiamo le emozioni della montagna. A una persona disabile diciamo vieni da noi perché noi rispettiamo le norme sulle barriere architettoniche. Mi piace anche la voce. Non è niente di bucolico tutto questo, cioè non ha niente, non crea pace. Vieni da noi perché noi rispettiamo la legge. Qualcuno di voi ha mai sentito un amico in questi anni? Il passaparola, sappiamo, è la prima leva di marketing. Sì, nel sì. Voi avete mai incontrato qualcuno che vi ha detto guarda Debra, guarda Nicoletta, io sono andato in vacanza a quel posto, come rispettano la 626 là, vacci perché la sicurezza. E vale la pena andarci. Adesso si chiama legge 81, però insomma tutti io, è più nota come la 626. Sì. Allora, nessuno va in vacanza perché quel posto rispettano la norma. Io vado per vivere un'esperienza. Guardate, si può fare responsabilità sociale facendo business. Offrire un'opportunità turistica significa oggi garantire l'accesso a un'esperienza anche persone con disabilità motoria, sensoriale, cognitiva. Parlavamo prima dei ciechi, l'altro giorno stavo parlando con una mia amica che è cieca, lei lo sa benissimo, l'ho chiamata e ho detto cosa stai facendo. A proposito, dobbiamo salutare Rita, perché un signore è passato, ci ha raccontato che la suocera non vedente ci ascolta e ci ha chiesto di salutarla. Rita, noi la consigliamo. Rita, un bacio. Scusi. E questa mia amica l'ho detto ma dove sei? Dice guarda, sono davanti a una chiesa e dovresti vedere quanto è bella. Ho detto, come vedere quanto è bella? Sì, l'ho toccata tutta, dovresti vederla, è stupenda. Quindi non nascondiamoci dietro al dito del certo. Se ho detto ci vediamo domani è un cieco. Oppure e non ci dormo la notte. Oppure quattro passi con me. E tutto questo ci aiuterebbe a buttare, no? Eliminare, almeno cercare di scalfire un po' questi pregiudizi, dottor Ballerini, che sono duri a morire. Ma certo, sono pregiudizi duri a morire. Se uno conosce, io ho avuto fra le mie amicizie qualche persona che non vedeva, quando mi scappava, ma non era mi scappava, perché è giusto dire ci vediamo, perché fa parte del... quando dico ci vediamo non intendo ci vediamo con gli occhi, ma intendo ci incontriamo, era perfettamente in grado di capire cosa stavo dicendo e anzi, nella maggior parte dei casi, era anche capace di fare autoironia, no? Per cui mi diceva sì, ci vediamo benissimo, no? Questo per dire che il problema è nei nostri occhi, il problema è nella nostra testa, più che nella testa dell'altro, più che nel corpo dell'altro. Allora, quando noi siamo troppo preoccupati di fare la gaffe, vuol dire che quando guardiamo la persona che abbiamo davanti a noi, non lo vediamo come una persona nella sua totalità, che è anche capace di cogliere, di capire che cosa io sto dicendo, ma lo vediamo esattamente come il suo problema, che è un problema da censurare, da nascondere innanzitutto a noi stessi e poi a lui. Quando siamo preoccupati di non fare la gaffa l'abbiamo già fatta, tra l'altro. Fatta, ci scappa. Infatti. Cuore e denari. Decalogo del turista con disabilità. Primo, dotarsi di pazienza. Secondo, scegliere una buona agenzia di viaggi. L'agenzia rappresenta il nostro interprete tecnico. Terzo, i consigli degli amici. Le persone con disabilità simili alle nostre sono quelle che spesso possono darci la dritta migliore. Quarto, l'accessibilità di per sé non è un motivo di vacanza. Non facciamo l'errore di scegliere il viaggio in base a questo criterio. Quinto, assecondare i propri interessi. Sesto, essere flessibili e disponibili. Settimo, prendere nota di tutto. Ottavo, ricordarsi di essere consumatori. Non dimentichiamoci che paghiamo per un servizio che ci deve essere corrisposto esattamente come l'abbiamo concordato. Nono, diventare scrittori. Impariamo a raccontare le nostre esperienze ad altri. Decimo, spesso incontriamo persone con disabilità che in vacanza sono troppo pazienti e sopportano anche l'insopportabile. Oppure persone troppo reattive, che esigono tutto e subito, secondo le loro pretese. Quasi sempre il giusto atteggiamento sta nel mezzo. Quello che abbiamo ascoltato era un estratto, l'abbiamo dovuto sintetizzare un po', del decalogo del turista con disabilità, un turista che è anche un consumatore. Che per è prima una... di tutto comunque è prima una di persona, esatto, no? Perché prima di consumare, di viaggiare, eccetera, siamo persone. Ed è stato scritto proprio dal nostro ospite, da Roberto Vitali, ed era anche piuttosto sorpreso del fatto che l'avessimo trovato, quindi una cosa che risale un po' di tempo fa. Sì, in realtà risale al 2003, anno europeo delle persone con disabilità, ed è stato uno dei manifesti di quegli anni. Lo ricordiamo appunto, Roberto Vitali ha creato Village for All ed è, come dire, spende proprio tutto il suo impegno per cercare di fare in modo che si diffonda sempre di più la sensibilità attorno alla questione del turismo sostenibile e lotta alle barriere. Ne stiamo parlando con lui, ma non solo, anche con altri ospiti. Nicoletta, cosa abbiamo facciamo? In linea con noi abbiamo Franco Lisi e il dottor Luigi Ballerini in studio con noi, con cui vorremmo spostare anche il tema, oltre che a quelle che abbiamo detto, le barriere immateriali, lei ha tradotto così le barriere invisibili, perché noi ci rendiamo conto quando l'altro ha messo un muro davanti a noi, quando non ha fiducia in noi, gli siamo antipatici, non ci accetta, ma vogliamo parlare anche delle barriere che dividono le persone che si vogliono bene, no? Penso ad esempio all'età, il tempo, certo, nei rapporti d'amore, la lontananza, sai, è come il tempo. No, ci si chiede, un amore può funzionare a distanza, anzi potremmo anche chiederlo, in fin dei conti. Ci sono amori per i quali la lontananza geografica è stata davvero una barriera, tanto che poi non è continuata, altri invece che hanno sopravvissuto benissimo. Allora la questione è probabilmente cosa ci metto io, no? Quanto sono capace di tenuta e anche di fedeltà, perché poi si tratta di essere fedeli ad un rapporto a distanza, in cui, che vuol dire senza una presenza fisica costante, fisica, ma può essere una presenza mentale, vuol dire che io posso avere presente l'altro nella mia vita anche se magari a 1000 chilometri di distanza. E cercheremo anche di capire se la distanza fisica è davvero una barriera. 800 24 00 24, hanno superato la nostra barriera rosa tanti ascoltatori, esatto. A proposito di barriera, allora io darei la precedenza subito, perché l'abbiamo proprio scelta nell'ultimo istante, la testimonianza di Maria Luisa da Roma, che ci sta molto a cuore perché ha una storia da raccontarci, appunto, e che vorremmo in qualche maniera così supportare un po', anche per aiutarla a trovare se possibile delle soluzioni. Maria Luisa, benvenuta. Buongiorno, grazie mille proprio a nome mio e di tutti quelli che come me hanno bisogno di dire queste cose. Mi fa piacere perché parlate di turismo e di turisti disabili. Io ho una bambina di 9 anni che si chiama Alice, è disabile. Mi piacerebbe, poiché viviamo a Roma, fare le turiste, sì, a Roma è impossibile, perché insomma i mezzi pubblici sono molto difficili da usare e in particolar modo le metropolitane. E in particolare lei dovrà andare a una gita, dopodomani andranno a un teatro, ci dovranno arrivare tutti i suoi compagni, ci vanno con il trenino, e purtroppo le maestre mi hanno detto: guardi signora, si tenga pronta, perché se non c'è l'ascensore noi la chiamiamo, e io naturalmente sarò prontissima. Certo. Però la cosa che mi secca non è ovviamente essere pronta con la mia macchina, mi rompe le scatole il fatto che mia figlia non possa andare, certo, con i suoi, ovvio, compagni, naturalmente, no? È evidente, così mille volte, cioè vorrei andare, che ne so, nei posti belli di Roma, ma mille volte e mille e una volta io rinuncio, e questo non è giusto. Allora io mi chiedevo, ma esiste qualcuno a cui telefonare, un posto dove andare a protestare, oppure forse c'è un'organizzazione di genitori come me, scusatemi l'emozione. No, ha ragione Maria Luisa, è tutto comprensibile. Questa è proprio una cosa di cuore. Infatti, no, Roberto, stiamo parlando poi di Roma, non esattamente di uno sperduto paesino di una remota provincia, no? Roma è l'esempio classico di cosa si può fare e di cosa non è stato fatto. Nel 2000, io ricordo, per il giubileo, Roma era una città accessibilissima. C'erano i percorsi tattili per i ciechi, liberi e sgombri, si potevano utilizzare. I marciapiedi avevano gli scivoli che coincidevano con le strisce pedonali, i servizi pubblici di trasporto funzionavano perfettamente. Quindi? Questo ve lo posso dire perché in quegli anni, ne parlavamo prima, io scrivevo itinerari enogastronomici, andavo in giro per fare itinerari, per raccontare alla gente come si può andare in vacanza indipendentemente dai propri bisogni, conoscendo quali sono le problematiche. E in realtà la città è evoluta talmente in maniera non più controllata, e soprattutto devo dire probabilmente uno dei più grossi problemi che vengono creati in una città come Roma, ma anche nella mia città, Ferrara, vengono creati dai comportamenti delle persone, certo, da chi ti mette la bicicletta in mezzo a marciapiede o ci parcheggia in seconda, esatto, o terza quale fila. Quale suggerimento possiamo dare alla nostra amica di Roma? Quale suggerimento che possiamo dare? Allora, in realtà bisogna verificare con chi gestisce i trasporti l'effettivo funzionamento del trenino. Strano, ma oggi nell'era della tecnologia, quando con una app possiamo prenotare qualsiasi cosa, possiamo twittare con chi gira sul satellite attorno alla nostra terra, non riusciamo a prenotarci un viaggio se non con 24 ore di anticipo nella maggior parte dei casi. E non certo con la tecnologia semplice come questa, ma dobbiamo telefonare ai call center di Trenitalia piuttosto che rete ferroviaria che gestisce i servizi. E a volte ti senti impotente, perché nonostante le garanzie, poi alla fine, se non funziona, tu stai a piedi, esatto, quindi la mamma deve prendere e risolvere il problema. Paradossalmente direi anche rompiscatole, no? Sì. Perché qualche volta si passa anche da... Franco, sì, raccontaci se ti sei sentito anche tu nella condizione di dover protestare, far valere dei tuoi diritti, e magari ti sei sentito solo. Come vi siete organizzati? Il mondo del non vedente, degli ipovedenti, è una realtà che ha fatto grandi passi avanti nell'inserimento. Noi abbiamo l'Unione Italiana Ciechi, che ormai da 90 anni rappresenta come associazione i non vedenti, e di strada ne abbiamo fatta tantissima, sì, nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro. Non dobbiamo abbassare la guardia. Oggi con la nuova legge di stabilità abbiamo un taglio del 80-90% sui finanziamenti, e questo ci pone in notevole difficoltà. A pregiudicare quasi l'esistenza, la permanenza stessa dell'associazione. Noi dobbiamo proseguire, io credo che oggi dobbiamo riuscire almeno a salvaguardare ciò che abbiamo ottenuto nel tempo, ecco, questo è il primo obiettivo. E dopodiché bisogna diffondere appunto la cultura dell'accessibilità, e torniamo sul punto precedente, dobbiamo rivendicare oggi il diritto all'istruzione dei nostri ragazzi. Oggi abbiamo dei grossissimi problemi rispetto al fatto che non sappiamo ancora chi farà capo la competenza dell'istruzione con la chiusura delle province, quindi non si capisce bene chi avrà la responsabilità di questo, e noi siamo molto impegnati, molto attivi su questo fronte. Abbiamo un problema della 113, che è la legge dell'assunzione obbligatoria dei centralinisti. Oggi è lì alla Camera, abbiamo presentato delle modifiche, e oggi rischiamo di avere tantissimi occupati, persone che sono dipendenti che però non hanno più lavoro. Insomma, i problemi sono tanti e dobbiamo andare avanti, dobbiamo combattere. Altre barriere da superare, dottor Ballerini. Lisa ha 9 anni e fa bene ad arrabbiarsi, fa bene a dispiacersi, ma sarebbe bello aiutare Lisa nel crescere con la certezza che può essere felice, ossia che non esiste precondizione umana che condanni all'infelicità. allora Lisa dovrà trovare il suo modo per essere felice. Allora vorrei dire che potrà non condividere il viaggio in treno con Alice, non potrà condividere il viaggio in treno con le amiche, ma potrà, quando loro arriveranno col treno, lei in un altro modo, fin tanto che non troveremo una soluzione a questo, da quel momento in poi potrà godere della loro compagnia, essere lei una buona compagna e godere di loro. Infatti. Allora si tratta proprio di partire con questa certezza, ossia non c'è un destino di infelicità programmato per nessuno. Detto questo, si tratta di capire come io posso fare i conti con il dato di realtà, anche la realtà ostile che gli uomini e le leggi e le norme rendono ostile a me in questo momento. Allora, Ivana da Salerno aspetta da un po' insieme a Marco, ce ne scusiamo, li sentiamo tutti e due, uno dietro l'altro, così poi commentiamo. Mi sembra un'ottima idea. Ivana, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, io penso che le persone vadano rispettate indipendentemente dallo stato di salute in cui uno si trova, semmai vanno aiutate e non va messa nessun tipo di barriera. È vero, Ivana, secondo me se noi chiedessimo agli ascoltatori, chiedessimo a Laura, a Valeria che è qua in studio, allora ma tu hai dei pregiudizi? Noi risponderemo di no. Invece, dottor Ballerini, possiamo capire con un semplice test se in fondo anche noi abbiamo queste barriere, questi pregiudizi, questa difficoltà nell'incontrare l'altro? Ma io direi che più che sui pregiudizi, ma sulle, siccome parlavamo di queste barriere immateriali, c'è una domanda che potremmo farci che sembra apparentemente lontana. E la domanda è scoprire o chiedersi se io sono un soggetto che si offende facilmente. Perché quando noi ci offendiamo accade qualche cosa. Vuol dire che se ci offendiamo facilmente, qualsiasi cosa o ci arrivi dall'alto che non è esattamente quello che noi vogliamo, che potrebbe essere anche che l'altro non ci piace nel suo aspetto o in quello che fa o in come ci appare, noi tiriamo su questo muro. Da quel momento in poi noi non lo ascoltiamo più, perché lo derubrichiamo, no? Lo cancelliamo dalla nostra agenda. Allora chiederci, ma io sono uno che se quando l'altro mi dice si offende, anche per cosa, mi offendo subito e poi vivere vicino alle persone che si offendono è terribile. Marco, buongiorno da Biella. Marco, si offende lei? Marco è un permalosone? Marco? Pronto? Ah, sì, buongiorno. Lei si offende ogni tanto o spesso? No, non mi offendo, mi offendo di fronte al sopruso. Lì sì, mi offendo parecchio. Alla prevaricazione, insomma. Sono reattivo, esattamente. Nella fattispecie, coloro che per esempio occupano il parcheggio dei disabili o parcheggiano sulle strisce, su marciapiede, un temone, sono oggetto delle mie ire. Sì. Un temone, Marco, sollevato dalle prime battute del programma da molti ascoltatori anche attraverso i messaggi. Infatti ha fatto bene a ricordarlo lei per noi. Però non voleva chiederci, non voleva parlare di questo. Sì, no, volevo darvi la mia testimonianza. Io non sono disabile, mia moglie è disabile in seguito di incidente tetraplegica in carrozzina e noi abbiamo continuato ad andare in giro per il mondo a fare i turisti. E io esorto tutti ad andare in giro per il mondo a fare i turisti, anche se è difficile, anche se ci sono mille difficoltà, perché fa educazione, perché pone la gente di fronte al problema. Sono qua, gestitemi. No? Dopodiché, secondo me, le barriere invisibili sono molto frutto delle barriere visibili, perché se il disabile è tra di noi, se impariamo ad averlo in mezzo ai piedi, insomma, questo fa educazione, questo fa sì che anche le barriere invisibili, la non conoscenza, cadano. Certo. In particolare, io volevo segnalarvi una cosa, però, dal punto di vista turistico, il signore che si occupa dei villaggi, volevo segnalarvi per esempio che noi siamo andati nel primo villaggio turistico amazzonico adattato per disabili, quindi insomma c'è coscienza in giro. Invece, non aveva la certificazione di Village for All, ma adesso lo ce l'ha. Lo sai, preparato Roberto? Grazie Marco, grazie molto e un abbraccio a sua moglie. Conosco, molti posti in Africa ad esempio sono molto accessibili, in India in giro per il mondo, in verità di opportunità di vacanza ce ne sono veramente tante. Chissà se sarà accessibile Milano per l'Expo, sarà pronta, perché ricordava Roma nel 2000 assolutamente una città da prendere a modello, poi qualcosa è cambiato, speriamo che Milano per l'Expo si attrezzi. Lei che pensa? Milano sta facendo delle cose per l'Expo, ci sono dei gruppi di lavoro, noi nel nostro come Village for All abbiamo creato un software ad esempio per fare il nostro lavoro, per raccogliere tutte le informazioni e per consentire poi alla persona di scegliersi la vacanza. Questo ci ha valso una serie di riconoscimenti e per questo siamo diventati startup innovativa e di ricerca, ne parlavamo prima. E uno dei lavori che dovremo fare assieme alla LEDA, che è la Lega per la tutela dei diritti delle persone disabili qui a Milano, è proprio quello di raccogliere e certificare l'informazione di 200-300 strutture che andranno a costituire il database di un sito che si chiamerà Expo Facile e su quale ci stiamo lavorando, siamo già partiti, siamo a Milano, stiamo rilevando in giro per la città con il nostro sistema che si chiama V4 Inside. Sicuramente almeno una parte di informazioni saranno accessibili, poi vediamo invece come sarà la città, ma insomma un po' di cose si stanno facendo. Certo. Siamo fiduciose, dottor Ballerini? Moderatamente aggiunge il dottor Vitali. Sì, è giusto essere fiduciosi e anche vigilare. Esatto, il moderatamente era in questo senso, infatti. Allora, leggiamo anche qualche messaggio. Peraltro Marco chiede se potrebbe essere interessante far sapere alle pubbliche amministrazioni che esiste una nuova app per smartphone che trova e conduce la persona diversamente abile ad ogni parcheggio per disabili. È una questione un po' complicata. Vitali, esiste questa applicazione? No, lui la dà per certa, Marco, quindi addirittura... una guida sostanzialmente tecnologica. Esistono tutta una serie di applicativi, di funzioni che possono essere estremamente interessanti, come questa ha una funzione talmente pratica e semplice, perché quando io vado in una città non so dove sono i parcheggi riservati e quindi in verità a in un attimo a patto di trovarli liberi e quello è il problema dei comportamenti di cui dicevamo prima. Allora io vorrei abbiamo due minuti, Deborah, abbiamo visto quanto è difficile rendere conto di queste barriere, no? A volte immateriali, mettersi nei panni degli altri. E allora Franco Lisi, vorrei ricordare l'esperienza che molti di noi hanno fatto, è stata, per alcuni mi hanno raccontato, è stata un'esperienza forte. A me ha accompagnato proprio Franco in questa esperienza di dialogo nel buio. Franco? Sì. Ti ricordi? Certamente, Nicoletta, è stato passaggio bellissimo della mostra. Permettimi solo di dire, per onor di cronaca, che rispetto a Expo Facile, insieme a LEDA vi è anche la FAND, che è l'associazione delle 5 associazioni storiche, tra cui l'Unione Italiana Cieca. Ecco, bene, detto questo, ma sai, la mostra ormai è una mostra che ha visto il traguardo di 800.000 visitatori, tutte le attività che facciamo, dai concerti, teatro, cene, formazione aziendale, percorso, si trova sul nostro portale ed è una mostra che si visita completamente al buio. Se mi lasci una mostra è un percorso che mi insegna a vedere oltre. Bravissima, se mi lasci proprio 30 secondi, mi interessa sottolineare i messaggi che in qualche modo, con la giusta presunzione, ma non credo che sia presuntuoso da parte mia, vuole un po' sintetizzare tutti gli spunti che sono stati dati, che cosa vogliamo recuperare, che cosa il visitatore fa all'interno di questa mostra. Intanto un bagno di umiltà, si vuole cercare di recuperare la funzione del dialogo, no? È venuto fuori anche prima, quindi nel buio la forza della parola, la gestione della paura. Noi sappiamo che la paura è uno stato mentale, dipende da noi quanto abbiamo paura della realtà, come la interpretiamo, l'importanza della fiducia nell'altro, riconoscere l'altro come risorsa e non come soggetto naturalmente inferiore, la funzione dell'ascolto, un ascolto vero, non finto, mi viene da dire un ascolto partecipato. Franco, staremo ad ascoltarti ore, ma purtroppo Cuore Denari deve chiudere, noi torniamo domani ma dagli studi e intanto noi dobbiamo ringraziare Roberto Vitali e Luigi Ballerini per esserci venuti a trovare nei nostri studi, naturalmente speriamo che si siano trovati bene. Ringraziamo Laura Vanossi qui con noi a Matching, Marco Lombardo invece in assistenza a Milano dagli studi, qua con noi Valeria Bernardi. Grande Valeria. Ottimo. A domani.